Capitolo secondo. Una proposta di matrimonio. L'antefatto che avevo raccolto sul suo conto l'esporrò in poche parole. Il padre e la madre erano morti da tempo ormai, 3 anni prima, e lei era rimasta con certe sue zie un po' sregolate. Sregolate è dir poco. Una zia era vedova, con numerosa figliolanza, 6 bambini, uno più piccolo dell'altro. La seconda era zitella, vecchia, cattiva. Cattive lo erano entrambe. Suo padre era stato un funzionario, ma del rango degli scrivani, e nobile solo a titolo personale. In una parola, tutto giocava a mio favore. Ai loro occhi apparivo come proveniente da un mondo superiore. In fin dei conti ero tenente a riposo di un fulgido reggimento, nobile di stirpe, indipendente e via dicendo. Per quanto concerne poi il banco dei pegni, le zie non potevano che guardarlo con rispetto. Lei per 3 anni aveva vissuto dalle zie in stato di schiavitù, ma in qualche modo un esame l'aveva superato. Le era riuscito di superarlo, rubacchiando un po' di tempo all'impietoso lavoro quotidiano. Il che significava pur qualcosa a proposito dell'aspirazione alla grandezza d'animo e alla generosità di cui dava prova. E io però, perché volevo sposarmi? Del resto, che me ne importa, si vedrà poi, non è questo il punto. Lei dava lezioni ai figli della zia, rammendava la biancheria e negli ultimi tempi lavava non solo quella stessa biancheria, ma anche i pavimenti, e con quel suo petto. E poi arrivavano perfino a bastonarla, a rinfacciarle ogni boccone. Come ultima soluzione tentarono di venderla. Ah, lascio da parte la lordura dei dettagli. Successivamente lei mi raccontò tutto nei particolari. Tale situazione era stata studiata per un anno intero da un corpulento commerciante loro vicino, ma non un semplice commerciante, bensì uno che aveva aperti 2 negozi di coloniali. Costui aveva già sepolto 2 mogli e ne cercava una terza. Ragion per cui aveva piantato gli occhi addosso a lei. E quieta, si doveva esser detto, è cresciuta nella miseria e io mi risposo per gli orfani. Effettivamente aveva dei figli rimasti senza madre. Si era fatto avanti con la domanda di matrimonio e aveva cominciato ad accordarsi con le zie, solo che aveva 50 anni e lei ne era terrorizzata. Fu allora che si fece vedere sempre più spesso da me per poter mettere i suoi annunci sulla voce. Alla fine si risolse a chiedere alle zie che le concedessero un pochino di tempo per riflettere. Le zie acconsentirono a che ci pensasse su per un po' di tempo, ma solo per un pochino, non di più, e si misero a tormentarla. Noi stesse non sappiamo che cosa metter sotto i denti, anche senza una bocca inutile. Tutto ciò già lo sapevo, per cui quel giorno, dopo quanto era accaduto quel mattino, presi la mia decisione. La sera il commerciante era andato a farle visita. Aveva portato dal negozio una libra di cioccolatini da mezzo rublo. Lei sedeva col bottegaio e io chiamai dalla cucina a Lucheria e le ordinai di avvicinarla e di bisbigliarle che mi trovavo al portone e volevo dirle qualcosa con la massima urgenza. Fui molto soddisfatto di me stesso. In generale, per tutto quel giorno ero stato terribilmente soddisfatto. Proprio lì, sul portone, a lei, già sbalordita dal fatto che l'avessi mandata a chiamare, spiegai, alla presenza di Lucheria, che consideravo una fortuna e un onore. Immediatamente dopo, affinché non si sorprendesse dei miei modi e della scelta del portone per parlarle, aggiunsi: sono un uomo franco e sono venuto a conoscenza delle circostanze della vicenda. Non raccontavo certo fandonie, sostenendo d'essere franco. Beh, al diavolo, in quell'occasione seppi esprimermi non soltanto in maniera cortese, vale a dire mostrando d'essere uomo ad una certa educazione, ma anche in maniera originale, e questa è la cosa più importante. È forse peccato riconoscerlo? Voglio giudicare me stesso e mi giudico. Devo dire i pro e i contro e li dico. Anche in un secondo tempo ricordavo, deliziato, quella situazione, benché ciò sia alquanto stupido. Allora io dichiarai sinceramente, senza ombra di imbarazzo, in primo luogo di non essere uomo di particolare talento o di particolare intelligenza, e forse di non essere nemmeno di particolare bontà, semmai un egoista, piuttosto gretto. Ricordo questa espressione, l'avevo escogitata là per la strada e mi aveva soddisfatto. Aggiunsi che era molto, molto probabile che io racchiudessi in me molti lati spiacevoli sotto vari aspetti. Affermai tutto ciò con una certa qual sorta di fierezza. Si sa come vengono dette certe cose. Ovviamente ebbi sufficiente buon gusto da non permettermi, una volta doviziosamente esposti i miei difetti, di passare a elencare i pregi, magari sostenendo il tutto però si compensa con questo e questo e questo ancora. Mi accorgevo che lei continuava ad avere una terribile paura di me, ma non per questo mi moderai, anzi, vedendo che mi temeva, rincarai la dose a bella posta. Le dissi in tutta franchezza che avrebbe avuto di che mangiare a sufficienza, ma che per quel che concerneva abiti eleganti, teatri e balli, non vi sarebbe stato nulla di tutto questo, o forse soltanto in un secondo momento, quando avessi raggiunto lo scopo. Questo tono così severo decisamente mi infervorava. Soggiunsi, per di più come di sfuggita, per quanto mi fu possibile, che se mi ero dedicato a quell'occupazione, se tenevo cioè quel banco di pegni, questo si doveva al fatto che io avevo un unico scopo e che esisteva una certa circostanza, non che avessi il diritto ad esprimermi in quei termini, avevo veramente uno scopo ed esisteva effettivamente una tale circostanza. Aspettate, signori. Per tutta la vita sono stato il primo a odiare quel banco di pegni. Ed è vero, benché sia ridicolo parlare a se stessi con frasi misteriose, che io mi vendicavo della società. È vero, è vero, è vero. Eppure l'acutezza di cui lei aveva dato prova la mattina, sostenendo che io mi vendicavo, giungeva a sproposito. Vedete, supponiamo le avessi detto francamente: sì, mi vendico della società. Lei sarebbe scoppiata a ridere, come aveva fatto poche ore prima durante la sua visita al mattino, e ne sarebbe sortito un effetto ridicolo. Ma con un'allusione indiretta, lasciando andare una frase misteriosa, si scopriva che diventava possibile conquistare la sua immaginazione. Senza contare il fatto che io ormai non avevo più paura di nulla. Ben sapevo che in qualsiasi cosa il grasso bottegaio le risultava più ripugnante di me e che stando su quel portone le apparivo come un liberatore. E questo lo capivo. Oh, l'uomo capisce particolarmente a fondo l'abiezione, ma proprio di abiezione si trattava. Com'è possibile in un simile frangente giudicare un uomo? Non è forse vero che io già allora l'amavo? Aspettate, ovviamente in quell'occasione io non le dissi nemmeno mezza parola in merito al beneficio. Al contrario, o al contrario. Sono io, affermai, a essere beneficiato, non voi. E questo glielo dissi addirittura a chiare lettere, non mi trattenni. E forse dovetti riuscire ai suoi occhi un po' sciocco, perché notai sul suo volto una piega fugace, ma nel complesso vinsi decisamente la partita. Aspettate, se proprio va ricordata tutta questa lordura, allora rammenterò anche l'ultima porcata. Stavo lì e mi ronzava per il capo quest'idea: sei alto, prestante, educato e alla fin fine, senza sparar fanfaronate, sei piuttosto belloccio. Ecco quel che mi passava per il capo. E si capisce, lei, già lì sul portone, mi disse di sì. Ma c'è una cosa che devo aggiungere. Su quel portone lei rifletté a lungo prima di pronunciare il suo sì. Tutto Ci rifletté così a lungo, che io ero lì lì per chiederle: E allora? Anzi, non mi trattenni affatto e, ostentando un certo sussiego, mi rivolsi a lei con un: Ebbene, e dunque allora? Ricorrendo a una pronuncia un po' di maniera. Attendete, sto pensando. E aveva un visino così serio che già in quel momento avrei potuto leggervi tutto. Ma io ero già quasi sul punto di risentirmi e pensai: non vorrà mica mettersi a scegliere tra me e il mercante. Oh, in quel momento non avevo ancora capito niente, allora non avevo ancora capito niente e ancora oggi non ho capito. Ricordo che quando ormai me n'ero già andato, Lucheria mi rincorse, mi fermò per strada e mi disse in fretta e furia: Dio vi ricompenserà, signore, del fatto che prendete con voi la nostra cara padroncina. Solo non diteglielo, lei è orgogliosa. Guarda un po', orgogliosa. Io, mi dicevo, amo le orgogliosette. Le orgogliose sono straordinariamente carine quando, beh, quando ormai non nutri più alcun dubbio sul tuo potere su di loro, non è vero? Oh, uomo vile e maldestro. E com'ero soddisfatto di me stesso. Sapete, non è escluso che lei, mentre stava sul portone a riflettere se dirmi di sì e io me ne stupivo, non è escluso che lei possa anche aver avuto un'idea del genere. Ma se ormai mi attende l'infelicità in un caso e nell'altro, che non sia meglio scegliere subito l'alternativa peggiore, vale a dire il grasso bottegaio, sperando che quanto prima da ubriaco mi bastoni a morte. E dunque, che cosa pensate? Che le sia potuta venire in mente un'idea del genere? Ancora adesso non capisco, anche adesso non capisco nulla. Ho appena finito di dire che lei avrebbe potuto avere quest'idea. Perché mai non scegliere tra due disgrazie la peggiore, e cioè il mercante? Ma in quel momento chi era per lei l'alternativa peggiore? Io o il mercante? Il mercante o l'uomo del banco dei pegni che citava Goethe? Ecco l'interrogativo. Ma quale interrogativo? Non capisci neppure questo. La risposta è proprio là, stesa sul tavolo. E tu parli di interrogativo, ma al diavolo la mia persona. Non è affatto di me che si tratta. E poi, che importanza può avere ora stabilire se si tratta di me oppure no? È una questione che ormai non sono assolutamente in grado di risolvere. Sarebbe meglio andare a coricarsi. La testa mi duole.